Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come d'abitudine, alcune brevi informazioni di servizio. La prima è quella relativa al sito radio24.it. Mi raccomando, visitatelo, è stato migliorato in questi mesi. È possibile interloquire anche con i conduttori, segnatamente quelli che hanno un blog. Io ne ho uno, lo conoscete, Guardie o Ladri. Mi farà piacere se lo visiterete, se continuerete a visitarlo come state facendo, anzi, e se anche lascerete commenti e proposte. La seconda informazione è quella che riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi prego, non mandate fax, perché in questo momento ne stanno arrivando in tutto il gruppo Sole 24 Ore a me indirizzati, con i fax più strani, ci mettono una vita per arrivare. Ma soprattutto oramai nell'era della telematica non sono più un canale molto agevole nel contatto e nella risposta, quindi mi raccomando, usate questa mail. Allora, mail che è stata raggiunta da un nostro radioascoltatore di Genova, che fa presente un caso molto interessante, perché riguarda probabilmente, adesso poi lo scopriremo anche con il nostro esperto, migliaia di persone, vale dire l'esodo incentivato, quindi una cifra che viene offerta al lavoratore, che veniva offerta al lavoratore, anzi meglio, che restava a casa alcuni anni prima di ricevere la pensione. Ricorderete, il periodo è quinquennale, dal 2000 al 2005. Allora, per parlare di questo tema e dei problemi ad esso connessi, innanzitutto do il buongiorno al radioascoltatore che ci ha segnalato questo tema, Mario Perdomini. Buongiorno Perdomini. Buongiorno a lei, dottor Galullo. E poi ad una vecchia conoscenza del Sole 24 Ore, perché è uno dei massimi esperti del gruppo e della nostra stessa radio, Luigi Lovecchio, dottore commercialista di Bari. Buongiorno Lovecchio. Buongiorno a voi. Allora, Perdomini, ci spieghi il suo caso, che poi è un caso comune a migliaia di persone. Dunque, io come tanti altri, alla fine del 2000, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, premetto che lavoravo in una grande azienda di telecomunicazioni, all'epoca mi è stato proposto l'esodo incentivato, quindi con la famosa cifra. Ora, io non lo sapevo, ma su questa cifra l'imposta IRPEF era ridotta della metà per le donne che avessero compiuto 50 anni, mentre per gli uomini lo sconto cominciava dopo il compimento dei 55. Io all'epoca ne avevo 53, nessuno mi ha detto niente, ho preso quello che mi hanno dato e mi sono fermata a casa. Nel luglio del 2006, con un decreto, Bersani e Visco hanno eliminato questa agevolazione. Nessuno ha detto che lo facevano, almeno io non ho sentito, che questa agevolazione veniva eliminata per adeguarsi a una sentenza della Comunità Europea. Quindi ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Esatto. Ad un'ordinanza, più precisamente, del gennaio 2008. No, del 2005. Ah, del gennaio 2005. Del 2005, che appunto stigmatizzava questa differenza di trattamento fra uomo e donna. Quindi eliminato la facilitazione, l'agevolazione, la parità è tornata ad essere sovrana. Se non che i 5 anni precedenti, dal 2000 al 2005, erano ancora da sanare. Nel gennaio 2008 c'è stata l'altra sentenza. Una nuova ordinanza sempre della Corte di Giustizia della Europea. Della Corte di Giustizia, che ha ribadito il problema, sempre riferito a quel periodo ovviamente, e qui c'è stato un pochino più di pubblicità. Quindi lei che cosa ha fatto? Ha scritto all'Agenzia delle Entrate... Ma io sono molto distratto, ecco. L'ho saputo a dicembre dell'anno scorso. Comunque va bene, comunque, in ogni caso lei chiama all'Agenzia delle Entrate chiedendo un rimborso. Ecco, chiedendo un rimborso. Nel giro di 20 giorni l'Agenzia delle Entrate mi ha risposto con un diniego assoluto, perché la domanda di rimborso doveva essere fatta entro 48 mesi successivi al pagamento dell'imposta. Benissimo, quindi lei aveva chiesto che le fosse restituito quella parte di IRPEF che aveva versato in più. A seguito delle due sentenze, ordinanze, anzi, della Corte di Giustizia Europea e l'Agenzia delle Entrate, le ha detto: caro Perdomini, mi spiace, ma lei ormai ha perso il treno, perché avrebbe dovuto farlo entro i 48 mesi, è giusto? Esattamente. Benissimo. Quindi a questo punto lei non ha ricevuto alcun rimborso dell'IRPEF versata in eccesso e mai lo riceverà. Dico bene? Secondo l'Agenzia delle Entrate no. Benissimo, allora, quindi questo è il quadro. Siamo partiti da un esodo incentivato, abbiamo visto che per taluni gli uomini il rimborso scattava, o meglio l'agevolazione sull'IRPEF, scusate, scattava dopo 55 anni, per le altre, le donne, dopo 50. Poi è arrivata la Corte di Giustizia Europea e ha detto: ma perché dobbiamo discriminare? Tutti uguali. Chi aveva pagato di più ha chiesto un rimborso, ma il rimborso, se è stato chiesto dopo 48 mesi, non poteva più essere concesso dallo Stato. Quindi questa è la situazione. Lovecchio, ho riassunto bene o ho riassunto male? Faccia chiarezza lei. No, ha riassunto bene le questioni. La questione sta esattamente così. Semplicemente, che cosa è successo dopo la prima ordinanza della Corte di Giustizia, che ha dichiarato contrario al principio di non discriminazione la differenza tra le donne e uomini, quindi 50 anni donne e 55 anni uomini. Beh, mentre tutti ci aspettavamo, come era logico, assolutamente logico, che essendo dichiarata inammissibile questa discriminazione dovesse operare la regola più favorevole, cioè certo, una volta che si superavano i 50 anni, certo, sia per uomini che per donne, si aveva diritto alla riduzione a metà dell'aliquota IRPEF, invece l'Agenzia delle Entrate, del tutto improvvidamente, con una risoluzione, ha ritenuto che la sentenza, l'ordinanza della Corte di Giustizia in realtà si era limitata solo a dichiarare inammissibile la disparità di trattamento, ma nulla aveva detto se l'equiparazione dovesse avvenire in melius o in peius, cioè per certo, tutti i 50 anni o per tutti i 55. Quindi lo Stato, quindi lo Stato, caro Lovecchio, come diceva, credo, a Batantuono in un film, scaltro come una volpe, furbo come una faina, ha detto: caro il mio contribuente, visto che la Corte di Giustizia Europea non mi ha detto se devo o non devo restituirti i soldi, hai pagato in più, attaccati al tram. È così, Lovecchio? Dopodiché però le cose sono cambiate, perché le sentenze, ci sono state diverse sentenze, commissioni tributarie di merito, ricordo quella di Treviso, ma c'è stata anche quella di Torino, che hanno invece accolto i ricorsi dei contribuenti osservando l'ovvio. L'ovvio è che certo, se la Corte ha dichiarato inammissibile la discriminazione, si doveva applicare 50 anni per tutti. Ecco, ma il nostro Perdomini, che ha fatto trascorrere 48 mesi, insomma 4 anni, ha speranze o non ha speranze? Molto scarse, inutile che ci prendiamo in giro, perché formalmente la risposta dell'Agenzia delle Entrate è corretta. Anche ricordo che c'è una giurisprudenza di Corte di Cassazione nostra abbastanza consolidata, che ha affermato che il rispetto dei termini decadenziali per la presentazione delle istanze di rimborso, nel caso specifico sono 48 mesi, come avete ricordato qualche minuto fa, è essenziale per ottenere la ripetizione dell'indebito e che in linea di principio non si applichino mai i termini di 10 anni previsti per la prescrizione decennale. Questo è stato affermato anche addirittura, che è il massimo, per le norme dichiarate incostituzionali, cioè anche quando una norma tributaria viene dichiarata incostituzionale da una sentenza della Corte Costituzionale, i soldi indietro io li ho solo se sono stato tempestivo nella presentazione dell'istanza di rimborso. Questa è l'Italia delle mille norme, dei mille cavilli, delle cose complesse, che tradisce quello che, come ha detto Lovecchio, è un principio sano, cioè quello dell'ovvietà, della logica. Se io ho avuto di più da te, quel che ho avuto di più te lo restituisco, punto. Questo dovrebbe essere l'ovvio. Invece lo Stato italiano è bravissimo a confondere le acque, quindi a fregare se stesso, perché lo Stato non è nient'altro che una collettività governata, cioè noi, e dice: non ho chiesto il rimborso entro 48 mesi, mi spiace, ahimè, ormai l'abbiamo incamerato. Triste è, ma è così. Allora, io ringrazio il nostro esperto Luigi Lovecchio, il nostro radioascoltatore Mario Perdomini da Genova, che ha avuto, come chissà quanti altri radioascoltatori, la sciagura di non chiedere la IRPEF versata in più sul l'accettazione dell'esodo incentivato in quel periodo dal 2000 al 2005. Ringrazio in regia Fabio Cantadori e in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.